Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Caro Marzio, pur non frequentandoci da moltissimi anni, mi sembra che abbiamo ancora un buon feeling. Mi pare quasi inevitabile, a volte, parlare del passato. So che tu leggi le mie parole come un tuffo o forse come una fuga nel passato. Per me, però, sono solo pura memoria. Sono Marzio, ho 44 anni, abito a Milano, lavoro nel campo enologico, sono sposato e ho due bellissimi bambini. Capita delle volte di fare un piccolo strappo alla regola, e vale per la puntata di oggi. Lo strappo alla regola è dovuto al fatto che da ormai un anno noi vi chiediamo per partecipare a questo programma, per far sì che la vostra storia diventi una puntata di questo programma, vi chiediamo di mandarci una mail a voi siete qui @radio24.it inviandoci un episodio della vostra vita, cioè una piccola storia vostra, realmente accaduta, che racconti qualche cosa di voi. Poi però succedono dei casi, lo dico, molto rari, perché succedono per strani incroci planetari, che ogni tanto mandiamo in onda e raccontiamo delle storie che non sono proprio una storia, cioè sono più dei piccoli momenti di riflessione. Capita quando in casi come questi leggiamo i racconti che ci mandate, e nella fattispecie il racconto di Marzio, che non è un racconto ma è una lettera che ha ricevuto da un suo amico, adesso non so più quanto tempo fa, glielo chiederemo più tardi, e che era una lettera molto lunga in realtà, e ammetto, mentre la leggevo la stavo quasi per abbandonare e dire beh no, non si può fare, però a un certo punto, arrivato alla fine, ho trovato un pezzo di questa lettera che ho trovato molto interessante, che ha a che fare col modo in cui le persone che ci conoscono ci vedono. È chiaro che noi Diamo una sensazione di noi all'esterno, no? Alle persone che abbiamo intorno, e probabilmente pensiamo anche di poterla controllare, la sensazione che trasmettiamo. Ovviamente non è così, per cui spesso e volentieri capita, e di solito capita quando si litiga con qualcuno, che quella persona ci dica delle cose che non ci aspettiamo che lui pensa di noi. Ecco, in questo caso questo amico di Marzio nella sua lettera gli dice delle cose, gli evoca dei ricordi che probabilmente nemmeno Marzio immaginava. E questo, diciamo così, ha dato lo spunto per tutta la puntata, che appunto se avesse un titolo sarebbe "Che cosa pensano gli altri di noi?". 349-238-6666, oppure voi siete qui @radio24.it, ma c'è anche un profilo Facebook che è sempre quello, che è Matteo Caccia, io sono qui. Poi non ne parlo più. La classifica dei libri più scaricati, oggi eravamo al terzo posto, Bonini, non so se hai visto. Non hai visto? Vedi? Perché questa febbre che ormai ha preso me e Bonini, solo noi, peraltro. Solo noi della redazione, che è quella delle classifiche dei libri più scaricati. Nella fattispecie è un'unica piattaforma, che è quella di Apple, quindi non conta poco o niente. Però se andate lì e cercate nella top classifica degli ebook gratuiti più scaricati, noi siamo dietro a Il Fumatia Pascal di Pirandello e a credo L'Inferno. No, noi siamo dopo Il Secondo Inferno di Dante Alighieri. Terzo, Voi siete qui. E poi siamo tallonati da Shakespeare, da Pirandello, siamo tallonati da Jane Austen. Un imbarazzo orribile. Cioè, allora, questo dice due cose. Dice o che là fuori è veramente pieno di matti, oppure che quella di ebook è fuffa. Perché non è possibile che pubblichiamo un ebook due giorni fa e siamo già al terzo posto davanti. Aspetta, dopo lo vado a cercare anche. Comunque, insomma, grandi forse anche eravamo davanti a Gozzano, davanti alla Divina Commedia, davanti al Paradiso e al Purgatorio. C'è dell'imbarazzo in questa redazione. Comunque, se volete scaricare l'ebook e aumentare il nostro imbarazzo, andate sul sito di Radio 24 e vi appare un pop-up, cioè una finestra che ve lo fa scaricare direttamente. Esther mi scrive a proposito del come ci vedono gli altri mi vedono tutto il contrario di quello che sono, e questo è un grande classico. Metà dei messaggi che sono arrivati su Facebook dicono mi vedono in un modo diverso da come sono. Il Gamba, in parte già il Gamba. Il Gamba scrive: non oso nemmeno immaginarlo. Francesca: difficile è prima scoprire come funzioniamo noi, perché non è così scontato. Nadia: vengo spesso definita una mamma zen, nel senso sempre sorridente e pacata, mentre io sono una schizzata. Ecco, una roba del genere più o meno la puntata di oggi. Il modo in cui ci vedono gli altri. Tutto grazie alla lettera di Marzio e poi, più tardi, alla lettera che ho ricevuto un anno fa da un amico. Caro Marzio, pur non frequentandoci da moltissimi anni, mi sembra che abbiamo ancora un buon feeling e mi pare non scontato. È quasi inevitabile a volte parlare del passato. So che tu leggi le mie parole come un tuffo nel passato o forse come una fuga nel passato. Invece per me è solo pura memoria. Facevo judo agonistico, quindi potevo fare, non so, il buttafuori piuttosto che lavorare nelle discoteche. E in uno di questi lavori che avevo trovato era il lavoro presso Burghi. All'epoca non c'era McDonald's, c'era Burghi. Questo mio amico l'ho conosciuto proprio tramite questo servizio d'ordine. Tu magari non lo sai, ma ci sono piccoli dettagli che mi ricollegano a te e molti di questi sono curiosi. Io ad esempio penso a te quando vedo una targa Verona o un ragazzone alto e rasato su un Africa Twin, quando vedo Liam Neeson in TV o il telefilm in cui David Carradine interpreta quel monaco che fa arti marziali. Penso a te quando ascolto i Mighty Lemon Drops o la tua musica setta dei Red Hot Chili Peppers, quella fatta con la dedica per me. O anche quando ascolto certi pezzi di David Sylvian o Sakamoto che mi avevi segnalato. Ma ci penso anche quando trovo uno che mi chiede di cambiare la batteria dell'auto, magari una duna, o sento parlare di un chiropratico. Ti penso quando vedo un hotel Bristol qualsiasi, quando sento qualcuno che dice di aver fatto il giro del Trentino in moto spendendo in tutto 150 euro in una settimana, o quando per i miei amici mi firmo con lo pseudonimo Il Russo. Ma anche quando porto mio figlio da McDonald's e mi pare di rivedere tutti i Burghi del passato, quando ascolto quella che per me è buona musica e poi penso al mio critico preferito cosa ne direbbe, quasi sempre arrivando alla conclusione che si tratta di fuffa o canzonette nemmeno degne di menzione. Ti penso quando vedo un grande fuoristrada rosso posteggiato nel parcheggio, quando dico a mio figlio di proseguire con la piscina e con il judo, che fanno bene e ne ho la prova, sei tu. Penso a te quando vedo un punto sulla cartina del mondo e penso, chissà dove sarà adesso Marzio. E penso alle strade blu che hai percorso e non solo visto sui libri, ai luoghi e alle popolazioni che hai visitato. E la lista sarebbe ancora lunghissima, ma come vedi è tutta rivolta al passato. D'altra parte, il presente non sempre offre molto. Lui è, diciamo, il classico fenotipo di quella persona che quando vive il momento lo vede sempre, diciamo, in una situazione che noia stare così, poi quando è passato il tempo che guarda indietro lo vede sotto una luce più positiva. Caro Marzio, non voglio farti incazzare con la mia mail, ma voglio essere certo che tra noi non vi siano equivoche interpretazioni né altro. Io non conosco abbastanza a fondo la lingua italiana, figurati l'inglese. Quindi, se mi metti frasi di canzoni o tue chiose poetiche in lingua straniera, non sono all'altezza di capirle. Parlami come a un vecchio amico o a un amico vecchio. Ti abbraccio e ti auguro buone vacanze e buon tempo. Hasta. Daniel says it's over now for good. I wish you could convince him that you should still be friends. Still be helping each other, still be friends, still be helping each other, still be friends, still be helping each other, still be friends. La lettera dell'amico di Marzio parla di amicizia e fino a qui non ci vuole una cima per capirlo. Però non parla semplicemente di quello. Parla di come i rapporti di amicizia si sfaldino a causa del tempo e delle persone che li vivono. Mi è capitato di pensarci in un modo abbastanza stupido qualche giorno fa ed è successo scorrendo la rubrica del mio cellulare. Provate a farlo. Se siete come me e avete sbagliato a gestire la rubrica della SIM card mischiandola con quella del telefono, allora ogni volta che cambiate cellulare vi ritrovate senza i numeri più importanti, che sono quelli che avete raccolto negli ultimi anni più o meno. Però avete tutti i numeri di telefono delle persone conosciute o registrate 10 o 15 anni fa, quando avevate comprato il vostro primo telefono e la vostra prima carta telefonica. Ecco, io rileggendo nomi di persone che non chiamo da anni, ho pensato prima che fosse un peccato non sentire più Giorgio, incontrato a Caprera nel 96, o Paola, con cui avevo condiviso un paio d'anni in università. Poi ho pensato agli anni che ci separavano, al tempo e alle cose che sono accadute e passate in quello spazio di tempo. E ho capito che in fondo era giusto così. Che ci sono persone che incontriamo in alcuni momenti della nostra vita, in alcuni cicli, e che a quei cicli lì appartengono. Loro per noi e noi per loro. E non si capisce come o perché alcune amicizie sopravvivano alla chiusura di un ciclo e altre invece soccombano. Però quando ti accorgi che ci sono persone che ti porti dietro da 20 o 30 anni e altre che invece hai perso di vista, forse un senso lo trovi, no? A leggere la lettera che l'amico ha scritto a Marzio, si ha la sensazione che quell'amico si aggrappi con tutte le sue forze all'amicizia con lui. Come se volesse sopravvivere ai cicli della vita e volarci sopra da una posizione privilegiata, in cui osserva e quasi veglia sulla vita del suo amico Marzio. Ecco, e questa secondo me è la seconda cosa di cui parla quella lettera, ed è la cosa più importante. Parla di come ci vedono gli altri. Non gli altri inteso chiunque, le persone che ci hanno visto come eravamo e come siamo. Insomma, le persone che ci hanno visto cambiare, se si cambia. È solo perché ho letto il racconto di Marzio e la lettera del suo amico che ho deciso di tirare fuori una mail che ho ricevuto lo scorso anno durante Io sono qui, verso la fine della stagione, più o meno in questo periodo. A scriverla era una persona che non vedevo più da 10 anni, 11 per l'esattezza. Ci avevo fatto un lavoro insieme, poi un altro, e alla fine avevamo condiviso una casa per un anno e mezzo. Eravamo amici, ci volevamo anche abbastanza bene, al punto che lui, a distanza di un decennio, ha pensato fosse giusto dirmi qualcosa di me, o di quello che io gli sono sembrato essere diventato. Ha pensato che era arrivato il momento di dirmi in che modo mi vedono gli altri, o almeno in che modo mi vedeva lui, che era sicuramente diverso da come mi vedevo io. Caro Matteo, che bello risentire la tua voce. Dopo quello spettacolo orribile al teatro di Pisa nel 1999, per me è stato quasi uno shock risentirti alla radio. Non sapevo più niente di te e di quello che facevi, e sono stato felice di risentirti su Radio 24. Devo dire che Io sono qui è proprio un bel programma, la storia è avvincente e il modo in cui la racconti è molto piacevole. Ho pensato parecchio prima di scriverti questa mail, anche perché non sapevo se le mail che arrivano al programma sei veramente tu a leggerle o qualcun altro per te. Alla fine però, dopo aver sentito una decina di puntate, ho deciso di scriverti comunque. Vedi, io non credo che sia facile raccontare delle cose personali ad una radio nazionale e farle sapere a tutti, ma credo che sia ancora meno facile vedersi da fuori con obiettività e avere il coraggio di raccontarsi in modo diverso. Ecco cosa, mi pare che tu non sia del tutto onesto. Ho la sensazione che tu voglia dare un'immagine di te che non è quella vera, o almeno non è quella che ricordo io. Sono pronto a correggermi nel caso in cui mi sbagliassi e a chiederti scusa, ma ti prego di prendere le mie parole come quelle di un amico. Ecco, quando parli di te lo fai con un tono molto umile, come se quello che dici non fosse importante o come se tu non volessi dargli importanza. Parli di te come se parlassi di tutti, quando tutti non sono te. Anche solo per il fatto che non tutti hanno il privilegio di fare un lavoro come il tuo, che li mette in contatto con così tante persone. Insomma, è come se tirassi il sasso e poi nascondessi la mano. Io forse mi sbaglio, ma ti ricordo molto diverso. Ti ricordo più egoista e più determinato, ma anche un simpatico cazzone. Mi ricordo una persona certo intelligente, ma anche molto ambiziosa. Ti ricordo come una persona simpatica ma non davvero divertente, uno che coglieva due o tre cose qua e là e poi se le rivendeva come sue. Mi piaceva molto quel tuo non prenderti mai troppo sul serio, che sento ancora oggi in onda quando ti ascolto. Ecco, è proprio in virtù di questo che ti scrivo, per dirti che ogni tanto mi dai la sensazione di essere uno che ha paura di essere scoperto, che ha paura che gli altri prima o poi si accorgano che sotto il velo di micro verità che racconti ci sia ben poco. Spero non sia così e spero di sbagliarmi, ma soprattutto spero di ritrovarti presto. Se ne avrai ancora voglia, ovviamente. Con affetto, un vecchio amico. Load up on guns, bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, myself assured. I know. A dirty word. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. A mulatto and albino, a mosquito, my libido. Sì, l'ascoltavo anch'io in Nirvana. In regia mi prendono in giro perché non ricordavo il titolo di questa canzone, che è Smell Like Teen Spirits, o Teen Spirits, Teen, Teen, ok. Li ascoltavo, avevo comprato il CD dei Nirvana, figurati. E poi però li ho persi di vista. Hanno dato, secondo me, Nirvana. Questo è un pezzo che è una cover di quella canzone di Nirvana fatta da Patti Smith. Trovate tutti i brani che mandiamo in onda sul sito di Radio 24, la pagina di Voi Siete Qui. Ma c'è, e anche su Twitter, Margherita Ina, che è lì che twitta, sudatissima. Ma abbiamo pochissimo tempo, quindi andiamo subito a sentire Marzio, che ha un bellissimo nome. Pronto, Marzio? Pronto, mi senti? Io ti sento, tu mi senti? Ok. Abbastanza bene, anche se sono nella zona che non prende. Allora, allora non so come facciamo a parlare in questo momento, ma andiamo fino alla fine. Dove sei, Marzio? Sì. In questo momento sono in zona Vicenza. Tu sei un enologo? Sono effettivamente un agronomo che fa anche, diciamo che fa anche della consulenza enologica, e sono anche enologo, anche se ci sono delle sfumature, diciamo, diverse tra un agronomo e un enologo. Senti, andiamo a questo amico che ti ha mandato la lettera. Possiamo ricordarne il nome? No, preferiamo lasciar stare. No, vabbè, lui si chiama Renato. Ma Renato lo sa che oggi era in onda, parlavamo di lui in qualche modo. Io gli ho mandato il messaggio, non ho sentito una risposta, quindi non so se ha ricevuto. Cioè, siamo passibili di denuncia, ci stai dicendo, per avere letto. No, mi assumo io la responsabilità, okay, perché sostanzialmente ho inoltrato io una questa mail, lettera, ecco. Sì, sì, sì. Senti, dimmi invece che tipo di amicizia è, cioè quanto vi vedete tu e Renato, perché non si capisce, siete amici di lunga data, come ci hai detto, lavorando, esatto, a Burghi, ma vi vedete quanto, una volta all'anno, una volta ogni due? Neanche. Io penso di non vedere più Renato da almeno 10 anni, e ci sentiamo con una frequenza altalenante, nel senso che ci sono dei momenti che ci sentiamo spessissimo via email soprattutto, quindi non parliamo, addirittura è una comunicazione epistolare. Senti, invece, perdonami Marzio, ma è che veramente ho poco tempo e voglio chiederti una roba che sembra, lo so, una stupidaggine, ma come si passa da Burghi all'agronomia, cioè da fast food a slow food? No, beh, io sono sempre stato appassionato di agraria e lo facevo per trovare un lavoro, cioè per guadagnare soldi mentre lavoravo, mentre studiavo, quindi di giorno di mattina studiavo, di pomeriggio la passavo in palestra e di sera lavoravo da Burghi. Ma scusami, o nelle discoteche. Ma c'era bisogno di sicurezza da Burghi? Sì, purtroppo sì, purtroppo c'era molto bisogno di sicurezza da Burghi, le persone non lo vedevano, ma purtroppo c'era molto bisogno di sicurezza. Marzio, invece, poi chiudo, visto che Renato dice che sono esperto di musica, cosa ne pensi di questo pezzo di Patti Smith, questa cover? Posso solo dire che forse meglio della versione originale dei Nirvana. Che si intitola, Marzio, che si intitola? Smells like Teen Spirit. Marzio, ti ringrazio moltissimo, in bocca al lupo per tutto e buona giornata. Figurati, ciao, ciao, grazie. Non sono gli altri a vederci il contrario di quello che siamo, siamo noi che non accettiamo che siamo proprio come ci vedono gli altri. Salvatore. Voi siete qui. La foto che ci ha mandato Marzio poteva di fatto anche non mandarcela, perché è una di quelle foto in cui si mettono le mani davanti perché non si vuole essere fotografati. È esattamente così. Si capisce solo che è su una spiaggia, presumibilmente in Liguria, a giudicare dal colore dei palazzi dietro. Si capisce che ha una tazza importante, che è pelato e soprattutto che non gli piace che gli vengano fatte le foto. Come ci vedono gli altri? Questo è l'argomento di oggi, grazie al racconto di Marzio. Non so come mi vedano gli altri, scrive Nunzio da Roma, ma sempre ho la sensazione che sia molto meglio o troppo peggio di quanto sia veramente. Ogni tanto vorrei una tranquilla mediocrità. Nunzio, gli altri mi vedono come un personaggio dei romanzi gotici, scrive non so chi. Gli altri mi vedono come gli pare, Ugo. E poi, ecco, diciamo, il premio per i messaggi fuori contesto di oggi va decisamente a questo messaggio, anche lui senza nome. Vale, ti voglio bene, non abbandonarmi. Guarda, forse volevi mandarlo a 101 o... Ci sono programmi di dediche ancora in radio in giro? Ci saranno? Sì, secondo me è Gamma Radio, dai. Subasio fa... Sì, ma Subasio però non si prende. No, vabbè. Forse sono... forse Radio Valentina. Radio Valentina, Vale, ti voglio bene, non abbandonarmi, ti prego, speriamo che le sia arrivato questo messaggio. I messaggi che sono arrivati a noi invece oggi, tra i vari messaggi, tra le mail, è arrivata una che mi ha fatto pensare effettivamente, è una cosa che non avevo mai pensato, che il modo in cui ci vedono gli altri passa spesso attraverso i soprannomi. Caro Matteo, il tema della puntata di oggi mi ha spronato per la prima volta a scriverti, o meglio, per la prima volta a scrivere una mail a un programma radiofonico. Io non lo so come mi vedono gli altri, ma ho qualcosa che mi accompagna da anni che mi permette di guardarmi sempre un po' da fuori e quindi un po' di capire come sono visto dagli altri. Quella cosa è un soprannome. Io ho 53 anni, gestisco una società informatica che crea applicazioni e software. Sono alto 1,87 e peso 94 kg. Mi chiamo Sebastiano, ma il mio soprannome è Mignolino, che ormai per tutti è diventato Lino. Mi hanno dato questo soprannome i miei zii quando avevo 3 anni e ultimo di 5 fratelli ero il più piccolo, per età e stazza, ma soprattutto perché avevo un approccio timido alla vita. Ora ho una famiglia, un lavoro che mi sono creato e soprattutto una pancia invidiabile, ma ancora oggi, quando torno al mio paese o incontro qualche amico di sempre, per tutti non sono Sebastiano, sono Lino, cioè Mignolino, quello piccolo, quello indifeso. Da ragazzino questa cosa mi piaceva perché mi faceva sentire protetto. Una volta cresciuto però ha iniziato a infastidirmi perché non volevo essere più quella cosa piccola e indifesa. Ora invece sono convinto che quel nomignolo in qualche modo mi abbia salvato. Mi ha salvato perché mi ricorda che non sono solo quello grande e grosso in giacca che va a fare riunioni in cui si usano termini assurdi e sconosciuti, firmando contratti spesso con cifre importanti. Sono anche e soprattutto quello che ero e il modo in cui mi vedevano gli altri. Adesso mi fa quasi piacere quando mi chiamano Lino, perché mi piace pensare di essere visto anche in quel modo lì, perché il modo in cui mi vedevano e mi vedono gli altri è parte di me più di quanto immagino. Auguro a tutti nomignoli e soprannomi che ricordino chi siamo. Grazie per lo spunto di riflessione. Sebastiano, Lino. Sunday streets, we got so much love. It's quite impossible to break our very foolish hearts. I've been waving to my girl from a land afar. It must have been a puzzling sight, for she's been traveling to a star. Sono le 16.41, è martedì 15 maggio, è un giorno qualunque per tutti, non lo è per me, volevo dirlo e lo dico una volta sola, ho deciso che lo dico. E c'è oggi un libro che ho scritto, è un romanzo, non c'entra niente né con le storie che ho raccontato qui in questi anni, né con le storie degli ascoltatori, è un'altra storia, è la storia di un bambino e di una bambina che vivono di notte. Questo è quanto, si chiama Il nostro fuoco è l'unica luce. 349-238-6666, gli altri mi vedono come uno troppo buono per questo mondo. Beh, si sbagliano. Gli altri mi vedono come gli pare ancora. E poi, ecco, questo è il messaggio più divertente che è arrivato oggi. Perché è arrivata una mail di Paride che dice: complimenti per il lavoro perché lui ha partecipato all'ebook. Non si può organizzare un momento di festa con tutti coloro che hanno mandato la propria storia con gli ascolti, con gli ascoltatori interessati? Sarebbe molto carino. Allora, abbiamo in mente di farlo. Abbiamo in mente, e questa cosa credo che si farà, ancora non abbiamo le date precise, però credo verso la fine di giugno, più o meno come l'anno scorso. Ringrazio anche chi dà altri suggerimenti. Antonio, PS, perché non lanciate un atlante partecipato del nostro paese? Ognuno di noi potrebbe raccontare la sua città e poi i testi migliori potrebbero essere pubblicati in un ebook. È la fiera dell'ebook. Grazie a tutti quelli che ci danno consigli. Grazie a Tiziano Bonini, a Margherita Ina e a Paolino Corleoni. La storia di oggi era la storia di Marzio e parlava del modo in cui ci vedono gli altri. Quella di domani è la storia di Liliana e parla delle occasioni che non tornano più. Era ormai tardi per l'ultima corsa della funicolare. Nessun problema, saremmo ritornati un'altra volta, magari non di domenica. Ma niente di tutto questo è mai accaduto. Di lì a qualche settimana la funicolare costruita ai primi del Novecento fu prima chiusa perché non a norma e poi definitivamente smantellata. Ne avrebbero costruita una nuova. Sono passati più di 30 anni e ancora l'aspettiamo.